e non sentivo i cambi di stagione. Giocavo con l'erba, parlavo coi fiori come mia nonna, non sentivo l'odore, ma non ne vedevo l'autunno, non ne vedevo l'autunno. Ridevo però che non era niente di più che un colore, con un cartone animato, e mi chiedevo che potesse fare lassù, con la stessa ingenuità che un bimbo ha, quell'ingenuità che adesso non c'è più. E adesso che mi piacciono le donne, è tutto quello che nascondono, ma io non posso mica accontentarmi che una ragazza al giorno già ce l'ho. Ma certo che mi piace divertirmi con le ragazze belle giù in città, però non posso mica lamentarmi se una ragazza fissa non ci sta. E forse lo farei l'imprenditore per vivere su un'isola con te, ma se ti penso non sarei capace di diventare vecchio e inutile, perché ho paura di toccare il fondo, di stringere coi denti l'esistenza, tirarmi dietro e chiedermi perché, magari per vederti piangere. Qui diventa cenere, allora faccio prima rassegnarmi, raccolgo tutte le mie lacrime, le lancio in aria e vedo che succede. E le raccoglierei in una canzone, ma non è mica sempre facile di farlo senza alcuna esitazione, per perdere di vista quel che c'è, perché ho bisogno di il fondo, di stringere coi denti l'esistenza e vivere la vita insieme a te. E chi l'ha detto che sia semplice? Mm-hmm.